Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutte le amiche e gli amici in ascolto, un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, Antonio. Anche stasera col nostro consueto programma per fare così per intrattenere le nostre amiche e i nostri amici, per quanto siamo capaci naturalmente di fare. Beh, ma abbiamo degli ospiti anche validi. Decisamente, sì, quindi, ed è questo il valore aggiunto, appunto, diciamo, della trasmissione. Questa sera che abbiamo, Antonio? Una signora che è un'icona della cultura bassanese, Bassano del Grappa, nobile città. Che è stata con noi ancora, mi pare, in ottobre, no? Che ha parlato di Bassano. Beh, allora la parola a te. Allora, un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che accogliamo in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, che è un qualcosa che, diciamo, è molto frequentato dai nostri amici, della qualcosa siamo orgogliosi. E un saluto cordiale naturalmente al nostro regista e al nostro coordinatore. Ecco, come sempre. Fai un breve accenno, certo, della nostra ospite. La nostra ospite è appunto di Bassano del Grappa, ma originaria di Roma, è la signora Elide Imperatori Bellotti, giornalista, scrittrice, animatrice e docente. Vive la cultura veneta con un amore esclusivo per questa terra di adozione. Nel 79 promuove con il direttore Fernando Rigon la sezione didattica del Museo Civico di Bassano. Nell'85 dà vita al gruppo culturale Le Arti per Via, compagine artistica che in vero teatro di strada ricostruisce una giornata di lavoro di quanti andavano per via proponendo il loro mestiere tra gli altri. E poi nel 98 scrive La ballata del millennio, che è spettacolo in 8 quadri a ripercorrere i 1000 anni di storia di Bassano, rappresentato nei luoghi stessi ove fu vissuta, con il coinvolgimento di circa 500 figuranti. È socia onoraria dell'Inner Wheel bassanese, membro di associazioni sociali e culturali quali l'Ande, il Cenacolo, gli Amici del Museo, gli Amici del Teatro, Anni d'Argento. Nel 2002, per la mostra Ezzelini, Signori della Marca nel cuore dell'impero di Federico II, progetta i laboratori didattici. Nel novembre 2002 riceve il Premio Nazionale Città di Marostica, settore poesia per l'infanzia. Nel 2003, in occasione della mostra dedicata ad Antonio Canova tra Bassano e Possagno, ha dedicato ai bambini una rilettura della vita del grande autore. Elide Imperatori Bellotti è iscritta alla SIAE dal 76 e all'Albo dei giornalisti dal 91. È stata insignita alla benemerenza del Museo Civico nell'83, Cavaliere della Repubblica dell'89 e nel maggio 2005 l'Associazione Nazionale Nonni e il Consiglio Regionale Veneto le conferiscono menzioni speciali per il contributo alla cultura per l'infanzia. È insignita del premio Città di Bassano del Grappa per l'anno 2010. Bene, Antonio, allora prima ci ascoltiamo una canzone e poi avremo al telefono la signora Bellotti. Benissimo. La prima canzone in programma è cantata dal trio Melody, cioè Gigi Proietti, Peppino Di Capri e Stefano Palatresi, ed è intitolata Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar. Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allieteranno la serata per voi. Verso una certa ora entra una pantera, sta con lui ma guarda me, sì, che sto appiccicato sul microfono e dedico canzoni. La guardarobiera vende sigarette con nasino e tette in su, tutti i fumatori che la puntano si fanno le illusioni. E noi dalla pedana controlliamo i movimenti a umma umma, a umma umma, finché diamo il cambio all'altra orchestra con la solita Blue Moon. Allo. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Ma che ne sai? Ma che che ne sai se non hai fatto il piano bar? Non vedi questa buona puttana? Sto prima io? Sì. C'è la soubrettina tutta fondo schiena con accompagnatore doc. C'ha 90 anni, 90 anni. Da ogni parte sbucano i fotografi a caccia di effusioni per mandare a casa l'ultima coppietta. Attacchiamo un finto jazz Scooby-Doo, Scooby-Doo, che ha lo stesso effetto di un sonnifero con le improvvisazioni. Finalmente paga. Eccoci di nuovo in studio ed è il momento della nostra ospite che abbiamo al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera signora. Buonasera a tutti, buonasera signora. Come sta signora? Ma abbastanza bene, grazie. Mi fa piacere. Compatibilmente con il tempo. Questo sì. E quasi ormai la fine di novembre. Sì. Ci siamo proprio. Allora, stasera di che cosa ci parlerà? Dunque, stasera volevo riprendere a narrare della storia di Bassano. Benissimo. E soprattutto così iniziare un po' con i miei tableau vivant, i quadri viventi che hanno connotato la ballata del millennio scritta nel 1998 in occasione appunto del millennio della città di Bassano. Ecco, quindi una narrazione che prevede la storia di Ezzelino da Romano in parte un fatto di sangue, forse l'unico accaduto in tutta la storia di Bassano, che riguarda un certo Perenzano De Blasi, e poi con tempo una poesia e anche una piccola favola veneta. Benissimo, ecco. Allora l'ascoltiamo volentieri. Ecco, la ringrazio. Buonasera e ben ritrovati cari ascoltatori. Il tempo è velocemente trascorso da quando ci incontrammo via radio per parlare della città nella quale io vivo da 60 anni, la cara Bassano del Grappa, nota nel territorio e nell'Italia tutta per la sua composta grazia e signorilità. Spero ne abbiate recepito almeno in parte la storia lontana del suo nascere nel 998 d.C., del suo progredire nel tempo, del vivere civile che da sempre la connota. Ma prima ancora di continuare a narrare, dalla voce di un caro amico, celebrato poeta bassanese ormai scomparso, Gino Pistorello, desidero riportarvi nelle nostre vie e piazze attraverso il suo poetico dire in Bassan città de vento. Bassan città de vento, doasoli de aria, con le trombe d'argento suonava strane storie in paradiso, supiando pian e forte, forte e pian. Così s'è nato il vento. Nella gran bocca verde de montagna che basa il Me Bassan, adesso è il sta de casa. Na sberla, sberla bona, supio san, che spaura i caivi, che lustra le contrade, che sburna sulle costole del monte scavegliando gli olivi e slonga il sbatocciar delle campane. El siga, el sona, el piange, el supia, el parla, la foia sala, il nino la sospesa, el suga e strasse de aporosente. Forse l'è il fia de Dio che disegna coi nuvole le fiabe, un nissolo de niente dove secuna dentro le si vie. Ecco, bella. Ecco, è la Bassano in fondo che tutti amiamo, in un'asciutta descrizione, ma estremamente poetica, l'idea della nascita del vento e di come esso giunga a noi attraverso la grande bocca della Valsugana, spaurando i caivi, cioè allontanando le nebbie, ecco, che normalmente invadono la pianura padana, e soprattutto questo senso di appartenenza quasi alla città nell'asciugare le strasse della pora gente, nel scavegliare gli olivi della collina e ancora raccontando storie lontane. Io la trovo estremamente bella. Decisamente mi è motivo. Ecco, è piena di immagini poetiche, sì, così come quella delle sisie, cioè delle piccole rondini, che si cullano in questo nissolo di niente, che è il vento. Ecco, l'ho sempre amata molto questa poesia. Sì, molto bella. E con lei questo caro Gino Pistorello, che ormai è morto da anni, ma che è stato veramente una voce poetica di grande valore nella nostra città. Allora riprendiamo a narrare, sì, e vorrei lasciarvi proprio intravedere quasi i quadri viventi, gli 8 quadri viventi, gli stessi tableau vivant con i quali resi omaggio a Bassano nel 1998 in occasione del suo millennio. Nacque infatti nel corale lavoro di molti la ballata, che fece rivivere in 8 quadri i momenti salienti della nostra storia. Più di 500 figuranti in costumi ed ambienti attentamente studiati per la regia di Lucio Parise, ormai scomparso, ma ancora direi un caro regista, ma ancora vivo nei nostri ricordi, si mossero nei luoghi ove i fatti accaddero. Cosa nuova per un evento teatrale che riuscì a coinvolgere la città tutta, richiamando momenti salienti e realmente accaduti. Cose lontane, è chiaro, e quindi una Bassano che si è già data la sua prima struttura, diciamo, no? Avevamo parlato dell'incastellamento della Pieve per difendere poche cose e poche persone dalle invasioni barbariche, ma ecco che l'incastellamento appunto di Santa Maria della Plebe, ancora oggi Santa Maria del Colle, punto più alto della città, che si dipana e quindi scaturisce con protezione di mura e porte, dando vita appunto a questo insieme molto corale verso la pianura fertile ed ariosa a sud. Quindi, come si connota? A nord un castello, a est, verso il sorgere del sole, tutto ben serrato per proteggersi da quelle rapide incursioni barbariche, a ovest il precipitare verso l'Argento Brenta e poi, pian piano, l'inurbarsi dei vigili, dei villici che all'intorno vivono, ma che tra le mura si danno delle regole di vita, ancora testimoniate dagli statuti del 1256, rivisti poi nel 1265. Questi statuti sono ancora visibili, si trovano nel nostro museo e quindi danno proprio l'idea di come questi cittadini riuniti in arengo fanno di questa piccola città un libero comune. Un libero comune, sì, che però ha anche l'ombra di un signore del tempo, che in esso ha svariate proprietà. Sì, è Ezzelino III da Romano. Ezzelino III da Romano, come era nato, diciamo, il 25 aprile 1194, e come i suoi predecessori, Ezzelino I il Balbo ed Ezzelino II il Monaco, suo padre, ecco, egli ha grandi proprietà in queste zone e non solo, ma i suoi beni sono concessi ad una miriade di piccoli locatari. Ezzelino III è un padrone accorto e furbo che si presenta con l'accattivante volto di protettore e benefattore. Di lui però si dice e si sa che è un mandante, diciamo, sarà poi suo vicario, di Federico II, che ama l'Italia, che ha nelle Puglie castelli e riserve di caccia, che ama poetare e vivere la sua grande cultura in diverse espressioni. Ezzelino è fedele all'imperatore Federico II, tiene libere proprio da questi luoghi le vie verso le Germanie con i suoi uomini d'arme, quelli che saranno sempre celebrati nella storia di questo terribile signore come i feroci bassanesi. Infatti i suoi uomini d'arme sono scelti in gran parte proprio in questa nostra piccola città. Ecco, direi che mi piace sempre puntualizzare il fatto che Bassano è un piccolo comune libero, non fa parte di una signoria. Il signore c'è, però è un signore che è tale non perché dà delle leggi, ma perché in parte può sottoporsi anche agli statuti stessi che si danno ai cittadini, ma soprattutto è la persona che ha più cose nella nostra città. Non solo, ma ad un certo punto Ezzelino III sposerà Selvaggia, figlia naturale di Federico II. In questa città sembra che pertanto giunge nel 1539 l'imperatore Federico con tutta l'imperatrice Isabella e con la sua piccola corte. È di passaggio perché si trova in quel periodo a Padova e siccome la figlia Selvaggia compie già un anno di matrimonio insieme ad Ezzelino III, è chiaro che questo padre si sposti per venire a salutare la giovane sposa. Non solo, ma in uno dei palazzi di Bassano del Grappa, proprio nel centro storico, recentemente è stato scoperto un affresco ed è stata scoperta quella che normalmente veniva chiamata la stanza dell'imperatore. L'affresco rappresenta infatti Federico II che offre una rosa all'imperatrice Isabella con accanto un suonatore di liuto. Quindi è quasi una sicurezza che Federico II abbia attraversato le strade della nostra piccola città e sia stato ospite di questo genero Ezzelino III da Romano, che tra l'altro era suo coetaneo, proprio erano nati nello stesso anno sia l'imperatore che Ezzelino III. Affascinante. A quei tempi era molto di moda il liuto, vero? Sì, suonavano molto, tanto e anche liuto. Più che il liuto la viella, la viella, il suonatore di viella, che erano appunto degli strumenti a corda, sì. Che ancora in alcuni musei si possono ammirare, si possono ritrovare. Sì. Era, ma quasi sempre nelle piccole corti c'era il suonatore di liuto di viella che raccontava storie accompagnandosi con la musica. Sì. Signora, ci fermiamo un momentino per una canzone e poi torniamo con lei. Bene, allora la seconda canzone in programma è cantata da Elisa ed è intitolata Anche se non trovi le parole. Yeah. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra gentile ospite per un'altra tranche di questa affascinante storia e poco conosciuta anche, ritengo. Grazie. Ma noi altri credo che, soprattutto con la ballata del millennio, abbiamo fatto rivivere tutti questi personaggi. Esatto. E quindi i bassanesi se ne sono anche appropriati, certo, con una certa soddisfazione. Ecco, e direi che la grande soddisfazione in fondo è stata anche la mia, per il fatto che tutti gli storici di Bassano hanno trovato perfetto quello che io avevo cercato di narrare, cioè questo è importante. Una base storica molto ben appurata, una molto fedeltà ben, assoluta, diciamo, alla storia, molto ben rivista e con una fedeltà assoluta, che poi appunto le dico, la scoperta dell'affresco per esempio della camera nuziale è molto recente, insomma, non è una cosa che già risaliva anni e anni, no, è stato un palazzo proprio del centro storico in via Zaccaria Bricito. Era stato venduto e diviso in appartamenti. Nel momento in cui questi appartamenti sono stati sistemati, quindi con grandi ripuliture e cose del genere, è stato scoperto questo affresco. Ma guarda, che è veramente una cosa eccezionale. È eccezionale. E sensazionale. Comunque, se avete occasione di venire a Bassano, basta che richiediate di vederlo e vi viene mostrato. Sì. Ecco, perché in effetti è una così adatto veramente una grande spinta anche alla storia di questa piccola città, no? Perché l'idea solo che Federico II non solo sia passato qui, ma si sia fermato a poetare, a vivere con la sua piccola corte e la corte di Ezzelino III proprio fra le mura di questa piccola città. Quindi insomma penso che sia devo dire, chiedo scusa se interloquisco, la ballata del millennio ha avuto una risonanza straordinaria. Io appunto l'avevo sentito nominare questo evento eccezionale ed ha avuto veramente una risonanza particolarmente. Sì, è stato bellissimo, guardi, poi ci ripromettevamo di ripeterlo ogni 2 anni, le dirò, c'è la difficoltà di avere immaginato 8 spettacoli e non uno. Esattamente. Non deve essere facile come gestione. Ecco, però noi avevamo dato in quell'occasione un senso di vita straordinario a tutta la città, anche perché avevamo scelto i luoghi nei quali gli eventi si erano consumati. Credo che questo fosse veramente importante. Ecco, questa è la cosa più importante, è anche molto nuova, perché in effetti se lei pensa anche a tutte le manifestazioni di tipo medievale o rinascimentale che vengono tenute in Italia, sono tutte di solito di un evento che viene appunto narrato, no? Come può essere il Palio di Siena, come può essere quello di Gubbio, cose del genere. Ecco, qui invece è un po' una grande pretesa, diciamolo pure, no? Un atto di pretesa voler raccontare 1000 anni di storia, però il risultato cosa, c'è comunque i fatti salienti erano molto importanti. Allora riprendiamo a narrare per dire che subito diciamo dopo la morte di Ezzelino la vita della città continua in una storia lontana fatta di personaggi e anche di umile gente, di fasto e anche di povertà. Ma il tempo, come vero galantuomo, come sempre, ha camminato nel volgere di giorni e di notti, di mesi e stagioni. E nel 1320 avvenne una cosa molto strana per una piccola città che viveva tranquillamente. E un processo sconvolse il quotidiano dei bassanesi trovando riscatto nel sangue. È l'unico fatto importante in questo senso e così anche diciamo un po' truculento che accadde proprio nel 1320. La storia ci narra così un tragico evento legato ad un personaggio di spicco, certo Terenzano dei Blasi. Terenzano dei Blasi era di una famiglia emergente a Bassano, infatti è fra le più documentate per vicende diverse, dall'ascesa al potere ad un tragico tramonto. I suoi componenti, dal capostipite Johannes Blaxi, compaiono nelle cronache quali garanti del comune, addirittura prestatori di denaro alla collettività in diverse riprese già dalla prima metà del 200. Lo zelo religioso della famiglia nel 1308 fa sì che sorga a Bassano il primo ospedale con annesso oratorio dedicato a San Giovanni Battista. In quell'epoca è figura di rilievo tra i Blasi Terenzano, che ricopre per breve tempo l'ufficio di podestà di Belluno. Bassano, in quel tempo, è dominata dai Carraresi, i Carraresi signori di Padova, sì. Ma nel 1319 Perenzano trama affinché possano impadronirsi della città le truppe del signore di Verona, Can Grande della Scala, sì, che sì. aveva già sottratto ai padovani la città di Vicenza e quindi aspirava molto ad avere Bassano come porta verso la Valsugana, come porta verso le Germanie. La congiura però fallisce. Perenzano cerca rifugio nel suo castello di Mussolente, appena fuori Bassano, ma nel maggio del 1320 la roccaforte è espugnata e rasa al suolo. Perenzano, catturato, viene condotto a Bassano e decapitato nella pubblica piazza, ammonito contro il tradire. Efficace monito, ecco, un evento molto triste ma molto vero, che noi abbiamo ricordato in quella che oggi è la piazzetta, adesso non mi viene il nome, la piazzetta Guadagnin della nostra città, ecco, e che è a nome ora di un eroe della Resistenza e che faceva parte però del Palazzo Pretorio, quindi era il luogo dove avvenivano poi le pubbliche diciamo condanne anche per delle cose certamente molto più lievi del tradimento di Perenzano. Sì, sì. In quell'occasione Perenzano in questa piazza fu decapitato e in questa piazza si è ricordato l'evento con il secondo, terzo tableau della ballata. Benissimo, questo è allora, molto interessante. Un allora cosa. Ancora avanti, ecco, e volevo invece proprio rifermarmi un attimo sulla povera gente, cioè come abbiamo fatto la volta scorsa, ricordando anche quello che era proprio la vita entro le mura della città. Ci sono già molti, diciamo, oltre che i villici che si inurbano la sera e portano dentro le mura anche i loro animali. Tant'è vero che ancora oggi a Bassano c'è il callesello delle piegore, c'è la contrada dei bovi, cioè i luoghi dove poi venivano raccolte evidentemente queste mandrie e queste cose, sempre per proteggerle dalle incursioni barbariche. Ecco. E quindi il tempo che passa e la povera gente che come sempre lavora nei campi ed anche dentro le mura, perché cominciano ad esserci anche degli artigiani molto importanti. Molto valenti, quelli che poi faranno la grande storia di questa cittadina tra il 400 e il 500, proprio quando il fiume sarà quel tramite grande di soprattutto di commerci con l'alta diciamo vallata e soprattutto per il trasporto dei legnami e di tante altre cose ad opera degli zattieri che arrivavano fino a Venezia, tant'è vero che proprio ieri sera facendo una piccola discussione ricordavamo proprio di come Venezia sia nata su quasi tutto il legname che veniva portato dal tagliato nei boschi del Trentino e anche di queste nostre zone. Ecco, allora diciamo che nella città c'è un certo fervore di vita, perché? Perché sì, le case sono povere, sono di legno e con tetti di paglia, bisogna fare molta attenzione all'acqua, bisogna fare molta attenzione soprattutto al fuoco, tant'è vero che appena fuori le mura della città c'è la grande vasca che viene tenuta, riempita dai portatori, i portatori svini, ma che in questo caso diventano i portatori d'acqua, cioè questa vasca che deve essere sempre piena, proprio perché se dovesse svilupparsi un incendio tra le mura della piccola città si sa dove ricorrere perché il fiume sarebbe troppo lontano. Misure antincendio ante litteram, quindi sì, anche veramente. E allora insomma deve riempire queste mura anche di fantasia, così per presentarle ai bambini, cose cose che io ho fatto in una raccolta per il giornale di Vicenza, intitolata La città raccontata ai bambini, ecco, in questa grande vasca va ad abitare la fata Cilestrina, ecco, l'anguana Cilestrina, non l'anguana, la fata, l'anguana Cilestrina, sì. Le anguane erano le fate dell'acqua, vero, che tormentavano la povera gente o che erano molto, magari a volte invece generose con tutti e altre volte invece molto dispettose. L'anguana Cilestrina c'è ancora a Bassano, perché dove allora c'era la vasca dell'acqua, poi fu posta la città, la fontana Bonaguro, regalata dal sindaco dell'allora Bassano in occasione del primo acquedotto cittadino, ed è la fontana che c'è in piazza Garibaldi. Quindi esattamente, ecco, siccome in piazza Garibaldi correvano le mura e poi c'era il grande vallo con la vasca dell'acqua e spini e rovi perché non ci si potesse avvicinare alle mura, ecco, ora c'è la piazza Garibaldi che scorre proprio velocemente, arriva a piazza Libertà per arrivare addirittura a piazzotto Montevecchio, ecco, che sono le due grandi piazze, sia piazza Garibaldi che piazza Libertà, nate proprio dai valli intorno alle mura. Ecco. E allora l'anguana Cilestrina ancora nella fontana. Abita a Bassano del Grappa nella fontana. Nella fontana, che bello, molto suggestivo. I nostri bambini sono affezionatissimi alla l'anguana Cilestrina, anche perché quando tira vento e naturalmente porta gli spruzzi d'acqua, ecco, noi sappiamo che è soltanto l'anguana Cilestrina che si diverte con il bassanino. Sì, che bello. Basta, ecco. Come ci raccontavano una volta noi. Sì, credo proprio di sì, perché poi non so, nelle mura, tra le mura di Bassano c'è il sanguaneo, ci sono tanti altri personaggi delle novelle, delle storie delle storie venete, insomma, il che a me per esempio piace molto, mi piace anche a me, ecco, che abbiano grande vita, sì, derivazione celtica, certo, naturalmente, certo, che abbiano grande vita, sì. Allora avevo scelto, proprio per parlare un po' della buona e povera gente, di raccontare una piccola favola veneta, però molto significativa, perché potrà dare, almeno in parte, il senso della subiectio, cioè della soggezione dei poveri e della prepotenza di altri, che è intitolata La peste del formaggio. Allora signora, un attimo solo che ci ascoltiamo una canzone e poi veniamo, certo, con lei ancora, certo. Grazie. Poi dopo raccontiamo sì, la storia. Sì, sì, ok, chiudere. Grazie. Prego, prego. Grazie. Allora adesso ci ascoltiamo, cantata dai Pooh, La donna del mio amico. Stammi ad ascoltare, sono troppe notti che ci dormo male, tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro e non c'è bisogno che ti dica quanto, ma la vita a volte i suoi comandamenti, qualche volta da difendere anche con i denti. Ti vorrei, ma lo so, non si può, tra di noi questo no, non si può. Ti sorprenderà che sia proprio io, che non credo in niente, che non credo in Dio, tirare in ballo questi sentimenti e a tirarmi indietro con te qui davanti. Sei la donna del mio amico e a qualunque costo non possiamo fargli questo, non sarebbe giusto. Dirti sì sarebbe facile, ma io non posso farcela. Se io fossi me ti trascinerei di su questo letto. Eccoci di nuovo in studio e adesso ascolteremo la favola che ci racconterà la nostra signora Elide. Ecco. Allora, questa piccola favola veneta, come vi dicevo, è molto significativa perché vi darà senz'altro in parte il senso appunto della soggezione di alcuni e di alcuni poveri e della prepotenza di altri. È intitolata La peste del formaggio ed è tratta da una raccolta di favole venete che io ho in una mia commedia ed è intitolato Spisseghi de fantasia, Sciantisi de magia. Ecco, allora possiamo iniziare sì. La storia che dice così. In un paese qua vicin de gera e che sei ancora una bea casa granda. Intorno non che gera che campi e tanta pora gente che andava a opera per campare. Dunque, il paronde sta popò de casa, io conosceva tutti per a sotto cagneria. Al tempo de pomei capita a servir da sto paron un tosato buon poareto sfadigon, ma una schianta indrio, tanto indrio che tutti che chiamava Bastian Pampe. Cogiora sera, Bastian arrivava in te a cucina de sta gran casa per mangiare un boccon e trovava sempre parecchia una gran pessa de formaggio, una poenta e sego e taglià. E a donna de a cucina, demo Bastian, move, ecco, mangè, e il paron m'ha detto de parecchiarvi così, e che mangè finché volì. E poro Bastian, grazie parona, avevo una gran fame, una fame da lupo, faceva un freddo ancora in te campi, i deis quasi me saltava a tirar su po me. E il povero Bastian mangiava, poenta e seola, ma non trovava mai il coraggio di tagliare sta pezza di formaggio. E il che faceva voglia però, ma non si fidava, e mangiava, poenta e seola. E intanto la femmina, Bastian, l'acqua, portemi il bigolo, demo, mangia sempre come se fossi desurbia. Sì, va, ma il formaggio, demo Bastian, basta di ingozzarve, scioparei qui in sta cucina, demo, mi occorre in legna, svelto. Rivo parona, vao, non stai a sigar, Bastian, voglia crepar, così ramicio e così te ingordo, dei stala, perché che sei va che da notar. Dopo 15 di sta solfa, il poaretto torna a casa, e suo pare, che lo vede stranio e bruttotto più del solito, che dice, e allora Bastian, come l'hai andata? Te me parciuccia da estrie? Che tu lavora, che tu trovate a far ben, e il paronte da, te ga da manco da mangiare per tanta fatica. E Bastian, lavora, pare che fa un muso, e per via di fatica go cagai corale, su e giù paioli vari, ma so spacca a schiena, ma per via di mangiare poco pan, anzi, tanta poenta e segola, ma rende di snar. Senti, il me fia. Cosa? Poenta e seola? Non eravamo d'accordo così. Cogo ho fatto il contratto? Che ho detto? Paron, il toso se bravo a lavorare, svadigon. A vu, pertanto 5 schei al di. Ma al manco, che il gabbia pan con qualcosa a volontà. E lui, non stai a dubitar, Cesco. Poente e formaggio in tola. E me opre non che se mai manca. Bastian, si pare, il formaggio che c'era, ma una pessa intiera, sempre da scominciare, e sua tola non capitava mai un corteo. E poi, pare, vuro savi, mi non so buono, no, di dimandar, e gomagna poente e seguo a par quindese di. E il padre, stacca ia. Sto tegna di un paron, che gera si formaio in tola. Guarda cosa che ti dico, dimandarò mi al tuo posto e vuoi veder cosa che capita per disnar. Perché guarda, orangio mi. E l'uomo così fa. La mattina Drio va sui campi, lavora co fa un muscio e poi a sera si presenta per il disnar. Capita un cugina e come suo fiolo trova pareccia. Ma l'uomo cava la sobritola da scarsea e taglia una gran fetta di formaggio e scomincia a mastegare. Bon ciò, bon, proprio bon sto formaggio. Peccà che il mitoso non gli abbia mai cercà. Bon, ben staionà. E la femmina, mi par cesco che mangi proprio di gusto, ciò, mi par giusto dopo una giornata in tel campo. Mangi, vardè. Ecco, che sei anche poenta ed è a buona seola taglia fresca. E il pare, non stia a preoccuparvi, ago una fame orba, ma anche un fiade di dilatazione de stomego, a poenta me fa brusor, e a seola anca. Ma po sto formaio, el zè da re. Sta donna qua vede che il formaio cala, e scomincia a pensare al parole alla sotta cagneria e per non saver né leser né scriver, a parte e a vai in mesa a chiamarlo. Paron, vieni fora, goda a dirve una roba granda. Cosa che c'è? Cosa volio? Non se poi il masferchietti in sta casa di amalora, dice il paron. E a femmina, na malora ave tocca paron, se tutti quei che vieno preimagna co facesco, da che se arriva il mastega de pien, gasco mi sa pezza di formaggio e non altro, dice ansi che polente seola che fa brusor de stomaco. Cossa, na pezza di formaggio, brusor de stomaco, a poenta fiol don can, spetami. E tutto in tavana, e il paron capita in cucina, che vede Cesco mastegar tutto tranquillo, però si ricorda del contratto fatto par Bastian Pampe e magna la foglia. Si avvicina con calma e dice, ciao Cesco, vedo che se ne è de gusto, bravo, ma attento, mi par che magna in massa formaio, e il formaio, o savi, scalda, e poi fa cascare la lingua. La donna, sì, fa cascare la lingua. E il padre, con ingenua meraviglia, cosa disio paron? Scalda, e il fa cascare la lingua. Allora lascia che parto sto tocco a casa per me mogliere, che per via di lingua, se de cascasse, sarebbe proprio una gran fortuna. Era graziosa questa cosa. Molto bella. Ecco, molto carina. E le dirò, vi dirò che teatralmente faceva un grande effetto. Complimenti signora, l'ha recitata molto bene. Grazie, teatralmente proprio un grande effetto. Io ho fatto come potevo. Ma benissimo, bravissima. Questo proprio da per cercare di raccontare. Esatto, rende proprio lo spirito del contadino, lo spirito così della sopravvivenza, anche, se vogliamo. L'argutia del contadino. Esatto. E lo spirito, che cosa era? Era un modo per sopravvivere. Per sopravvivere esatto. Soprattutto certo. Alla prepotenza di chi, avendo il coltello dalla parte del manico, se ne approfittava, era anche soverchiava molto la povera gente. Infatti. Signora, ci fermiamo ancora un momentino. Che poi abbiamo l'ultima tranche. E poi salutiamo, così. Va bene. Allora, la quarta canzone in programma è cantata da Domenico Modugno ed è intitolata Il vecchietto. Mamma, dov'è il nonno? Nonno, andiamo alla giostra. Nonno, dov'è il nonno? Ha fatto la valigia e se n'è andato, perché la nuora non lo vuole più. È troppo vecchio, troppo malandato, con i bambini non ce la fa più. Allora si è rivolta ad un ospizio, ma si è sentito dire solo no. Ci spiace tanto amico, non c'è spazio, già stiamo troppo stretti, non si può. E il vecchietto dove lo metto non si sa, mi dispiace ma non c'è posto per carità. Il vecchietto dove lo metto non si sa, mi dispiace ma non c'è posto per carità. È andato dritto all'ospedale chiedendo un posto all'accettazione. Non ce la faccio più, mi sento male, mi manca solo ormai l'estrema unzione. Ma il medico di turno si è scusato, guardandolo con un sorriso fesso. Lei non si rende conto in quale stato, abbiamo gente pure dentro al cesso. E il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Ah. Allora non sapendo cosa fare, ha fatto quello che può fare un pazzo, con una corda al collo in fondo al mare, ha fatto finta d'essere un merluzzo, ma al cimitero grande del Verano, appena sceso giù dal furgoncino, si è incavolato subito il guardiano, mettendosi a parlare col becchino. Sto vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Sto vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Va a finire che non c'è posto, forse neppure nell'aldilà. Eccoci di nuovo in studio. Signora, siamo ancora qui con lei per l'ultima tranche. Grazie, grazie. Allora, con questa canzone mi ha dato un po' di tristezza, tutto considerata. Ma è un po'... È volutamente provocatoria. È provocatoria, molto sì. provocatoria. Sì. Io poi amavo molto Modugno. Ecco, poi insomma è stato proprio, diremmo, il cantore della sì. nostra giovinezza. Le piaceva Modugno? Ecco, moltissimo, sì, avevamo tutti, li abbiamo ancora tutti. Ma signora, la prossima volta sì. che lei verrà, sì. è così accontento, penso di accontentare lei, accontento anche me, magari con le canzoni degli anni 50, se le ricordo. Ah, bellissimo. Ecco, allora così ci accontentiamo tutti e due. Benissimo, ce ne sono di moltissime veramente. Sì, sì, sì, sì. Ecco, allora io così per chiudere questa volta volevo leggere un'altra poesia di Pistorello. Benissimo. Ecco, legata un po' al tempo, insomma, questa fine di novembre, che è stato un mese molto clemente, direi, vero? Anche a parte troppo. I disastri di questi ultimi giorni, sì. ecco, dai quali siamo veramente sgomenti e in parte così dolenti, perché esatto. insomma, morti così improvvisi, soprattutto una tragedia. Bambini. Ecco, devastazioni che già poi si legano male al periodo difficile che stiamo vivendo. Ecco, non possiamo che prendere atto con molta tristezza di quanto è accaduto in questi giorni. È una stagione anomala, c'è troppo caldo. Ecco, forse sì, è troppo strano, perché è un tempo molto strano. Strano comunque, sì. di solito invece in questo periodo sulle nostre montagne c'era già la neve negli altri anni. Almeno il nostro, come dire, il nostro Gratta aveva già il suo bel cappuccio, spolverate anche nell'altipiano. La cosa è già accaduta, però... molto meno che negli anni scorsi, insomma. Ecco. Allora avevo scelto di leggere Leggenda della neve, sempre di Pistorello. Sì. Leggenda della neve. Quando un pastore resta senza fia, va dritto in paradiso, per diventare l'anzolo pastore dei scappi delle nuvole, le piegore del cielo, ligae con corde azzurre all'infinito. Perché la terra bianca come nel sol desposa fusse la santa notte, quattro vecchi pastori, co forbese de vento, avude in prestito dalla tramontana, i gattosà le piegore del cielo. Come il respiro dolce de na mamma in viso al pisenin, la lana venia su verso la terra. Primavera parea sui boschi nudi, era il primo Nadal, la prima neve. Che bella. Bella, vero? Sì, ma... ho tutta la raccolta sì. del mio caro amico, anche dedicata, e quindi dico la verità, anche ho dei miei momenti di tranquillità nei quali mi piace molto rileggere e quindi scegliere qualcosa. Ha delle bellissime immagini però sì, questo sempre, vero? Ha delle immagini stupende, sì, secondo veramente. Me l'idea delle nuvole che sono le piegore del certo, cielo. Certo, no, bellissime. È fortemente com'era evocativa questo, proprio. Com'era questo signore? Ecco, la storia di questo signor Pistorello. Gino Pistorello. Pistorello? Sì. Ma, dunque, lui diceva, Pistorello vuol dire piccolo panettiere, perché pistore, vuol dire, giusto. Era un uomo buono, molto tranquillo, che era diplomato, credo, e era sposato ma non aveva figli. Girava per la nostra città con questa enorme barba bianca e tutti lo salutavano con molto rispetto, fumava la pipa, si fermava a lungo nei suoi bar, naturalmente. Ecco, io l'ho conosciuto molto da vicino, che era già abbastanza anziano, ma non molto, perché è morto non tanto vecchio. Ecco, non era molto vecchio, però aveva, posso dire, proprio un'onestà di sentimenti veramente che colpiva, come traspariva dal suo parlare. Insomma, era un uomo buono, un contemplativo ed anche un generoso. Ecco, e quindi io lo ricordo in questo modo, vuol dire che così documenterò un po' di più su questo personaggio e potrò dire qualcosa. La prossima, rifaremo magari un po' la storia anche di questo personaggio. Sì. Benissimo, suoi libri non trovo note sulla vita dell'autore. Particolare, ecco, era troppo modesto per volersi permettere grandi cose. Vorrei dire una parola rispetto appunto al poeta. Sì. Lo vedo, anche per evocazione della città, vedo certo. Il poeta come un distillatore di sentimenti, sì, se vogliamo. Proprio così. Guardi che le sue immagini, secondo me, sono di una poesia unica. Sì, decisamente. È proprio una sintesi di emozioni, di sentimenti e cose di questo tipo. Io, guardi, in questi anni credo di aver letto migliaia e migliaia di poesie, un po' di tutti qui, un po' del trevigiano, un po' così. Però un Veneto bello, come quello di Pistorello, no, effettivamente pochi lo usano. Ha una poesia che ti tratta il funerale, che è bellissima. Sì, la leggeremo, sì, il funerale, ma sì. è molto ironica, perché lui faceva anche proprio, diciamo, dell'ironia anche scrivendo, no? E quella del funerale è un amore. Ecco, la leggeremo magari la prossima volta. Ecco, perfetto. Però, prima di lasciarla andare, io vorrei così ricordare semplicemente che Bassano e gli alpini sono un binomio inscindibile. Io credo che la più bella manifestazione degli ultimi anni o decenni sia stata quella di Bassano. Una Grazie cosa per da questo brivido. Ricordo. Una cosa da brivido. Io c'ero, sono stata in tribuna tutto il tempo della sfilata, godendomela proprio a pieno, ecco, e devo dire che è stata una cosa bellissima. Emozionante. Emozionano sempre queste feste. Grande emozione per tutti noi, veramente, ecco, non ho sentito anche nelle ultime sfilate l'emozione, anche proprio da chi le frequenta, che c'era stata a Bassano. No, è proprio un sentimento particolare, io ricordo perfettamente che è stata una cosa indescrivibile, decisamente. Ecco, mi fa piacere che lei ci sia stato. Bassano è, adesso che appunto lei ce l'ha descritta così bene, veramente è una favola. Decisamente. Ah, sì, una veramente. Nobile città. Sì. Guardi, io sono 60 anni che vivo in questa città e ho vissuto bene, malgrado le cose negative della mia vita, le morti che ho subito, purtroppo sono cose che accadono agli uomini e alle donne vita, come me. Sì, però io sono grata anche proprio a tutti dell'essere, di aver vissuto qui e di godere anche così dell'affetto e del rispetto di tutta questa città. Insomma. Sì, c'è anche della gente molto, molto alla mano. Molto affettuosa, sì. I veneti non sono di molte parole, però se sono amici sono dei veri amici. È vero, se sono amici. Ecco. Senz'altro. Allora, buone cose. Signora, a voi. Noi la ringraziamo tanto. Ringraziamo con un pensiero e con una dichiarazione. Diciamo, trasmissioni come queste nobilitano lo spirito e il nome della nostra trasmissione, Storie de no altri. Ecco. Grazie a lei signora. Ecco, buona noi ci sentiamo, signora. Ci sentiamo per la prossima trasmissione. Grazie. Benissimo, adesso ringraziamo e passiamo alla prossima canzone. Che è cantata, questa volta sono proprio moderna, da Emma Marrone, ed è Tra passione e lacrime. Thank you. la stessa stanza caldissima. Senti la pioggia che rumore fa. Ancora nel mio letto, tu cosa fai? Così innocentemente, ma innocente non sei. Come me, come tutte le scelte, come tutte le volte. Stesso sogno dolcissimo. Da sempre sull'orlo, sempre in bilico. Tu offri parole come fossero fiori. È un vento di scirocco, ti trascini fuori. Come fai? Come un ladro di notte apri tutte le porte. Eccoci ormai arrivati al momento della chiusura, Antonio. Esatto, io abbiamo avuto una bella trasmissione. Sì, sì, decisamente. Volevo, a proposito di questa e altre trasmissioni, volevo ringraziare tutti i nostri ospiti, perché ognuno di loro ci dà una, così, una sfaccettatura di quel prisma straordinario che è la vita. E con un apporto di notizie, di cose che non tutti sanno, io ritengo, anzi, che molti non abbiano mai sentito parlare. Ma io di Bassano di non sapevo personaggi. Niente, ad esempio. No, decisamente. Bassano è una città straordinaria, veramente splendida, equidistante, diciamo, dai grandi centri e compagnia, e proprio con uno spirito libero, effettivamente, come diceva la signora. E come lo descrive quel poeta? È una cosa stupenda. In modo assolutamente splendido ed evocativo. Delle immagini stupende. È questo, cioè il far rivivere così emozioni, luoghi, eccetera, che non si sono mai visti né conosciuti in modo assolutamente naturale. E anche quelle storie, quella favolina che ha detto la molto, signora, molto che bello. Carina. Ma non che... non un veneto, ma diciamo, d'origine non avrebbe mai veramente, potuto dire veramente qualcosa di meglio. Ma noi, molto bello. Ma noi l'avremo fra breve la signora. Esattamente, certo. Io conto che la cosa sia in questi termini. Vabbè, non Antonio, ci resta che ringraziare. Ti ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. E a te, Antonio, sempre un grazie. Grazie a te. Ecco, e... un saluto affettuoso e come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.